Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo? Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Buongiorno, era l'8 luglio, ma sembra oggi. Era Papa Francesco a Lampedusa, le sue parole erano parole che in qualche modo sembrano purtroppo profetiche. È andato lì per la prima uscita del suo papato e oggi Lampedusa, l'abbiamo visto, ha concentrato l'attenzione di tutto il mondo. Tutti i mezzi di informazione da ieri sono concentrati su questa tragedia che si è consumata alle 5 del mattino. 111 sono i morti, lo sappiamo, tra donne e bambini, morti affogati a mezzo miglio dall'isola dei Conigli. Abbiamo visto, abbiamo ascoltato tutto, tutti. Noi vi facciamo sentire due strofe di una poesia che racchiude in qualche modo il dramma e il coraggio delle persone che inseguono la speranza di una vita migliore. Con gli occhi spenti, con lo guance cave, pallidi, in atto addolorato e grave, sorreggendo le donne affrante e smorte, ascendono la nave, come s'ascende il palco della morte. E ognun sul petto trepido si serra tutto quel che possiede sulla terra. Altri un misero involto, altri un patito bimbo che gli s'afferra al collo, dalle immense acque atterrito. Quello che avete appena sentito è Gli emigranti di Edmondo De Amicis, dello 1882. Gli emigranti eravamo noi, però, eravamo noi italiani con gli occhi spenti e le guance cave alla disperata e coraggiosa ricerca di una vita migliore. Siamo qui naturalmente a Mix 24 con i miei preziosi amici, compagni di viaggio, Pierangelo Buttafuoco. Buongiorno. E Mario Secchi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Prima di darvi la parola vorrei collegarmi velocemente con Grazia Longo della Stampa, che dovrebbe essere in collegamento da Lampedusa. Grazia, sei in collegamento? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie a te per questo tempo che ti rubiamo. Vorremmo sapere intanto com'è la situazione lì. Allora, la situazione è che procedono tra le ricerche per il recupero dei dispersi. L'unico problema è che oggi il mare non è molto calmo, quindi i sommozzatori hanno difficoltà ad immergersi, ma la loro attività è preziosa perché sotto la profondità di 40-50 metri sotto il mare sono stati avvistati ancora un centinaio di corpi e ci hanno detto prevalentemente di donne e di bambini. Quindi in qualche modo comunque bisognerà... Un centinaio di corpi, quindi sì, una tragedia biblica proprio. Sì. Ecco, sì. Noi abbiamo aperto questa nostra puntata di oggi con le parole del Papa dell'8 luglio a Lampedusa. Ecco, lì queste parole, che traccia hanno lasciato di fronte a questa tragedia? Ma sicuramente hanno lasciato, come dire, la traccia più che altro per quanto riguarda gli isolani, perché qui la solidarietà è veramente grande e nonostante tutte le difficoltà che sicuramente ci sono per la convivenza con tanti profughi, questo è un popolo dal cuore grande. Lampedusa è veramente il luogo dell'accoglienza vera, il luogo dell'accoglienza, e forse per quello il Papa era andato lì. Sì, credo che non sia per riconoscere questo valore di accoglienza dei lampedusani. Credo proprio di sì, perché ti ripeto, qua ieri in tanti pescatori proprio, sono tanti pescatori o anche turisti o persone che vivono qui, che possiedono barche insomma più belle di quelle di un pescatore, sono andati a recuperare i miei cadaveri e anche a salvare tante persone. Ho parlato con un pescatore che ieri ha recuperato 20 corpi, due ahimè senza vita e 18 persone invece vere, ecco, e quindi è fondamentale. Grazie mille, grazie. Grazie. Questa è la cronaca, naturalmente, però al problema drammatico della cronaca si sovrappone il problema del che fare veramente. Cioè, ieri il ministro degli interni ha chiamato in causa l'Europa perché non c'è in realtà una differenza legislativa tra Roma e il resto dell'Europa, ma c'è una differenza di welfare, una differenza di organizzazione. Ecco, Mario, com'è la situazione da questo punto di vista? Noi e l'Europa, come facciamo a far diventare un problema che è un problema di tutta l'Europa, è un problema dell'umanità che si muove in un certo senso, un problema che non sia soltanto del paese che accoglie, al di fuori di ogni retorica? E al di fuori di ogni retorica noi faremo parlare i fatti. Il Trattato di Lisbona, articolo 79. Il quale dice le seguenti cose, state attenti cari ascoltatori. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare in ogni fase la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. Questo è il punto di partenza. E allora la domanda che noi ci dobbiamo fare è: quanto hanno collaborato gli altri stati europei con l'Italia? Perché il Mediterraneo per noi è una frontiera, è un confine e si vede. Ma a quanto pare l'Europa lo ha dimenticato. Ecco, è comodo, Pietrangelo, per l'Europa dimenticare che questo è un problema che riguarda sostanzialmente tutta l'Europa, ma l'umanità che si muove è la storia dei movimenti biblici dell'umanità. Non è che si possono affrontare con strumenti tampone e casuali. C'è stato un atteggiamento dell'Europa irritante che dovrebbe essere respinto al mittente e il governo italiano dovrebbe farsi carico innanzitutto di questo. Non ci si può permettere di dire che l'Italia stia sbagliando di fronte a questi fatti, tant'è vero che già Lampedusa, ma anche altre parti delle nostre coste, a Catania quest'estate e poi ancora a San Pieri fino alla scorsa settimana, l'unica immagine che è stata data, grazie a Dio, è stata quella della solidarietà immediata della gente nei confronti di chi arriva, nei confronti dei naufraghi. Noi già abbiamo dovuto affrontare la tragedia ridicola del naufragio di Schettino, figuriamoci che cosa significa invece questo. Abbiamo usato tutte le parole più logore della retorica per raccontarle. Dovremmo vergognarci di questo, perché non si può essere parolai di fronte a questo fatto. Bisognerebbe essere invece crudamente realisti e dire una volta per tutte che qui c'è una guerra in corso. È stata dichiarata una guerra in corso da un'azione della criminalità organizzata. E così come nella stagione della nostra memoria abbiamo l'idea di quello che è stato anche l'esodo dei nostri stessi progenitori, che è quello dei che nostri abbiamo avi, sentito. Quello che abbiamo sentito, esatto, attraverso le parole di Pascoli, perché eravamo noi ad essere prima migranti. Adesso sappiamo che cosa significa, perché la nostra identità plurale ci fa riconoscere un istinto immediato di fratellanza e a maggior ragione deve essere cancellata la retorica. Ma è altrettanto ovvio che questo parco giochi macabro istruito dalla criminalità organizzata, dallo schiavismo organizzato, deve per forza di cose essere combattuto con mezzi militari. Tant'è vero che quando il Santo Padre se ne va a Lampedusa ad elevare la cattedra della carità e della pietà, sa perfettamente di parlare ad una città qual è quella dei lampedusani, che non hanno bisogno di una lezione di carità e di pietà perché la fanno ogni giorno. Dovrebbe, per esempio, preoccuparsi di quello che fanno i cattolici di Malta, e invece sparano contro le navi dei migranti ed è la Marina Militare Italiana a correre immediatamente nei pressi di Malta per soccorrere i naufraghi. Posso dare un elemento, Mario, di cronaca? Pietrangelo ha inquadrato, secondo me, il problema benissimo, sia dal punto di vista culturale che di clima che si sta vivendo in questo momento. Io do un elemento perché stamattina il vice premier e ministro dell'interno Angelino Alfano, che è stato, devo dire, molto colpito da quello che ha visto, ha detto: occorre promuovere al mondo Lampedusa e il cuore straordinario dei lampedusani per il Nobel per la pace. Occorre fare una grande battaglia per assegnarlo all'isola. E io penso che qui non ci sia per una volta nessuna retorica, perché e non siamo neanche nel, come dire, nel climax del piatto di pasta e della tenda. È un'altra vicenda, e penso che Lampedusa sia un esempio straordinario che gli euroburocrati irresponsabili dovrebbero andare a vedere con i loro occhi prima di sparare sentenze. Il Nobel della pace però non è un salvagente. Io temo che si cada nella retorica. È un rischio, però in questo caso non lo è. L'unica azione vera è quella militare, se non proprio poliziesca. Ecco, oggi Martelli, che è stato autore di una legge sull'immigrazione, una legge importante e meditata, oggi in un'intervista al Messaggero dice no al fanatismo, no alla retorica, e le sue parole sono: esatto, la temperatura va abbassata, chi governa usi il termometro invece di gettare il fiammifero sulla benzina e incendiare tutto. Va conciliato il diritto di ogni uomo a vivere dove desidera con quello degli stati di tutelare il proprio territorio sorvegliando confini e ingressi. E siamo di nuovo, allora, secondo me, a questo asilo che regola, questo asilo europeo che è regolato dalle leggi europee, che però penalizza in realtà, in concreto, al di fuori della retorica, penalizza l'Italia, perché, come dicevo prima, non c'è una differenza legislativa tra Roma e il resto d'Europa, ma c'è una differenza di welfare. E allora come si riesce a conciliare? È indispensabile che sia a livello europeo la soluzione, o perlomeno la riflessione operativa su questo punto. È così, Mario? Ma per forza di cose deve essere a livello europeo. Guarda, quello che sta accadendo è frutto degli ultimi anni di politica estera. Io vorrei ricordare che è stata fatta un'operazione di regime change in Libia, sponsorizzata dalla Francia, dal Regno Unito e dagli americani, che avevano un piano più grande, diciamo, di cambio dei regimi. E guarda caso, la Libia, subito dopo la caduta del colonnello Gheddafi, è diventata una via praticamente aperta all'immigrazione. Tant'è che le notizie che si davano da subito su questa tragedia dicevano che si trattava praticamente di persone che venivano appunto dall'Africa del Nord, dalla Libia. Tutto quello che è successo poi in Tunisia, tutto quello che è successo in Egitto, e potremmo andare giù per i rami, diciamo, dell'Africa subsahariana, è chiaro che ha bisogno di una risposta, e non può essere, certo, scusate, la sola piccola e generosa italietta a mettere in piedi una risposta che deve essere diplomatica e anche militare. Ecco, senti, ha ragione. Abbiamo ricevuto un SMS adesso che mi sembra particolarmente interessante. È facile, dice l'SMS, è facile per la Germania programmare l'arrivo di 5.000 migranti lavandosi le mani del problema globale. Gli sbarchi non sono prevedibili e organizzabili. Ecco come ragionano le organizzazioni europee. Ecco, insomma, siamo sempre lì a scaricare il cerino. Non sono prevedibili gli sbarchi, ma come mai, interroghiamoci allora, solo e soltanto in Italia, solo e soltanto nei confini italiani? È vero, l'altro ieri per esempio in Bulgaria sono arrivati 10.000 profughi dalla Siria, ma è stato un percorso accompagnato, esatto. Non è stato certamente improvvisato dalle emergenze e dalla necessità. Poi bisogna chiarire un punto. Questi sbarchi, che sono senz'altro determinati dalla fame, non sono sbarchi spontanei, ma sono gestiti dalla criminalità organizzata. E siccome, Giovanni, tu hai aperto la trasmissione con quella poesia di Pascoli, giusto come memento per ricordare chi siamo e cosa siamo stati, Io voglio ricordare come l'idea del trafficare con la carne è l'affare più lucroso nella notte dei tempi, che si chiama schiavismo, certo, e che ce l'abbiamo nella nostra memoria al punto tale che perfino nelle nostre stesse terre, io ricordo un racconto, una cronaca dal vero fatta da Leonardo Sciascia, quando dei trafficanti di carne prendevano i soldi per imbarcare clandestini in destinazione dall'America, li facevano partire da Porto Empedocle, li tenevano al largo, illudendoli della navigazione e poi li sbarcavano nelle coste di Ragusa. Una truffa che veniva perpetrata senza sangue, ma che invece oggi si manifesta proprio nell'affare più lucroso, ricordiamoci, dopo la tossicodipendenza, perfino dopo... Beh, cioè, la stagione del proibizionismo per tornare, cioè, questo è una riflessione di fondo. Mario, c'è una notizia, poi voglio leggere un sms che ho appena ricevuto. Rapidamente, giusto per stare appunto in real time, il ministro Alfano ha detto: bisogna sospendere le ostilità e le polemiche politiche in questa fase, poi ci occuperemo delle cose pratiche per risolvere il problema, cominciare dall'Europa. Ecco, qui comunque Intanto c'è chi dice che per quanto riguarda l'immigrazione bisogna distinguere immigrato da rifugiato e tornare a un mix tra la legge Martelli e la legge Turco-Napolitano. Punto e basta. E questo è il punto di ripartenza, e rispetto al quale la sinistra forse ha fatto una demagogia eccessiva. Ma guarda, provo a rispondere io. La tematica, diciamo, sull'asilo politico si è prestata in questi ultimi anni a grandi equivoci, strumentalizzazioni, purtroppo con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Non ci sono dubbi che il mix giusto sia proprio quello che tu hai appena detto, cioè un equilibrio tra immigrazione e casi di asilo politico che esistono ma non possono essere di certo così diffusi. E resta però il tema, cioè che noi da soli non possiamo certamente accogliere tutte queste persone. Gli italiani da soli, l'ha ricordato ieri sempre Alfano durante la conferenza stampa che ho seguito, era molto interessante anche per la diligenza e l'ordine con cui è stata condotta tutta questa vicenda. Gli italiani da soli hanno soccorso, spesso in acque non territoriali, 16.000 persone. Parliamo di una cosa enorme, e non lo fanno sulla terraferma, ecco, ma in qui, mare. Scusa Mario, un altro sms che si inserisce su questa linea della demagogia: alla fine pagheremo, dice Andrea, pagheremo questo buonismo di facciata. Ecco, questo problema è un problema reale, mi pare, dice anche Marco, dovremmo accogliere tutti i migranti e poi accompagnarli a confine, tempo 3 giorni, e l'Unione Europea deve trovare la soluzione. Ecco, siamo sempre lì, o è un problema di tutti o il problema non si riesce concretamente ad affrontare, perché con le parole noi restiamo soltanto penalizzati dal nostro welfare. Allora, ci sono due piani, poi voglio che Pietrangelo intervenga su questo. Il piano 1 è regole e cose da fare. Il piano 2, che in realtà è l'1, è il problema culturale. Cioè, con il politicamente corretto a tutti i costi, anche quando non ce n'è bisogno, e con il buonismo a ogni piè sospinto, non si va da nessuna parte, perché non si racconta alla fine la verità. Io penso che, insomma, sotto questo profilo debbano essere fatte delle cose importanti a livello culturale, nelle scuole, nell'educazione. Insomma, il senso civico delle persone alla fine viene fuori da queste cose, no? Pietrangelo? Il politicamente corretto fa danni, compreso quello del Santo Padre. Fa danni enormi, incalcolabili, perché con le parole si nasconde la cruda realtà. È soltanto la grazia di Dio, che si accompagna nell'istinto di misericordia della gente, che ha potuto in questi momenti di emergenza supplire all'idiozia dei parolai. Detto ciò, c'è solo una cosa da fare. Io non ho l'impressione però che il Papa a Lampedusa sia stato un parolaio, ma mi pare che ha fatto un riferimento invece a questo fatto, che il problema è collettivo e la globalizzazione non lo rende mai problema individuale, cioè la diversità del singolo, i suoi desideri non sono mai l'elemento che entra in gioco, sempre numeri. Allora, la diciamo così e faccio appello al fatto che tu sei un protagonista della comunicazione. Non è più un capo spirituale, certo, lo è un capo spirituale, però la comunicazione ha macinato su tutto, per cui non riesci più a distinguere quello che dice la simpatica presidente della Camera e quello che dice il Santo Padre, perché sembra che tutto debba essere risolto in, una, cioè, in dici, un pollaio un della continuum. Politica. È un continuo di pollaio politico, parolaio, su cose concrete. Questa e serie. È una riflessione molto interessante che riprendiamo subito dopo la pubblicità. Mix 24. Siamo ancora qui a Mix 24 con Pietrangelo Buttafuoco e Mario Sechi. È il momento del che cosa bolle in pentola, sigla. La prima cosa che bolle in pentola naturalmente oggi riguarda ancora il Papa. Il Papa è a Assisi e noi ad Assisi ci colleghiamo con Giacomo Galeazzi della Stampa. Grazie di essere con noi. Giacomo, mi senti? Buongiorno. Ecco, volevamo sapere un pochino come si sta svolgendo la visita del Papa. Se ci sono delle novità clamorose, se c'è la previsione di qualcosa di clamoroso. È straordinario come sempre il grado di informalità che Francesco dà alle sue visite. Nell'incontro con i bambini disabili, gli ammalati, ospiti dell'istituto serafico, ha completamente abbandonato il discorso, l'ha proprio consegnato come se fosse letto, ma poi a braccio ha descritto la sua chiesa, che è la chiesa che, come quella di San Francesco, vuole spogliarsi di una vita agiata per sposare Madonna povertà e per imitare Cristo in modo radicale. Parole che sono il programma di un pontificato, il simbolo del magistero degli ultimi. In tutta la vita di San Francesco, secondo Bergoglio, l'amore per i poveri è l'elemento unitario, inscindibile. E il Papa lo ha dato anche visivamente questo effetto, è sceso dall'elicottero portandosi da solo la borsa, poi ha parlato a braccio al serafico e poi dove San Francesco si è spogliato delle ricchezze, oggi disegna la Chiesa povera per i poveri. Ecco, e la Chiesa povera per i poveri nel concreto significa delle decisioni precise, già prese, che si capiscono, o è ancora un'enunciazione al di là dei suoi comportamenti personali e simbolici? Ma innanzitutto lui, come dice il Vangelo, ritiene che non è il sabato per non è l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo, quindi lo spirito conta più della lettera, però sta cambiando anche la lettera. Pensiamo che ha attivato questa costituente in Vaticano che deve approvare una nuova costituzione apostolica che sostituisca la pastor bonus che andrà in pensione, che quindi con il nuovo disegno di curia, con la nuova bozza approvata e in discussione dagli 8 cardinali consiglieri ieri che sono con lui qui ad Assisi. Una chiesa più collegiale, insomma. Una chiesa più collegiale e soprattutto la chiesa al servizio delle diocesi e non centralista. Ecco, lui è previsto un discorso diciamo più importante, un discorso centrale in questa giornata o no? Ma sicuramente quello che sta quando? Sì, tra 10 minuti lui nella sala della spogliazione incontra i poveri e pronuncia il discorso simbolicamente più forte. Ecco, quindi se ci fosse qualcosa di particolare, di veramente significativo, di operativo, possiamo richiamarti? Con piacere. Grazie, grazie mille, grazie. Allora Mario, intanto, in attesa di sapere se cambia qualcosa ad Assisi, rimandiamo la sigla del che bolle in pentola, perché è il momento di Mario Sechi con le sue straordinarie notizie. Eccoci qua. Allora, intanto il mondo ribolle, perché abbiamo negli Stati Uniti l'accelerazione delle procedure per l'eventuale shutdown del governo. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window. Eccolo qua, era Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Lui. Proprio lui. Il grande. Il grande, the boss. Insomma, questi Stati Uniti che chiusero per fallimento. Beh, a un europeo, a un italiano, poi non ne parliamo, siamo il re del debito senza controllo, la cosa può sembrare strana, però in America questa è, diciamo, la procedura normale, se di normale si può parlare. Senti, io ti avevo chiesto, scusa se ti interrompo, ma io ieri ti avevo chiesto, portami un americano qua, che così ci racconta, sentiamo dalla viva voce di un americano che cosa capita, però tu hai provato, sei un grande amico, non è capitato niente. No, è capitato niente, ho chiamato il press office dell'ambasciata americana, qua abbiamo rapporti da anni, ho detto, beh, mi mandate qualcuno, che ne so, Steve? Risposta, Steve non può venire. Perché abbiamo già diminuito tutte le nostre operazioni. Cioè non aveva i soldi per il taxi. E praticamente non può spendere. È così, sembra una cosa un po' surreale, però in realtà questo è il metodo della politica americana. Cioè, dalla mattina alla sera, anche all'ambasciata americana in Italia, sì. Fine dei soldi. Solo visti ed emergenze in questo momento. Funziona così. È molto interessante. Spieghiamo a chi ci ascolta. Ecco, che sì, perché è interessante, ma un attimo drammatico. Sì. Conoscete quel proverbio, occhi che avete fatto piangere, piangete. Arriva l'antiamericano. Non c'è, allora, spieghiamo che non c'è l'accordo in Parlamento tra i democratici e i repubblicani e Obama sul tetto di spesa, quindi su fare più debito sostanzialmente. Poi i repubblicani si sono arroccati chiedendo profondi cambiamenti in cambio sull'Obamacare, cioè la legge sulla sanità che viene estesa a fasce che prima ne erano escluse. Obama a sua volta non torna indietro e non può perdere la faccia. Il risultato è quello di uno stallo. C'è tempo fino al 17 ottobre per mettersi d'accordo. Nel 95 successe già questo fatto. E come si è risolto nel 95? È che in un paio di giorni poi trovano l'accordo. Insomma, è un'altra, anche lì giocano a poker. Assolutamente. Una gran partita di poker lì. È un partitone gigantesco. Pensa che allora 800.000 lavoratori furono coinvolti da questa cosa. Il governo federale. Ma l'hanno perso, scusa, in concreto. Nel 95 sì. Hanno perso lo stipendio per quanto tempo? Una settimana circa, mi pare, più o meno. La formula è un mix: alcuni vengono messi a riposo, altri lavorano ma non vengono pagati. Non è detto che tu becchi gli arretrati, tra l'altro. Questa è una cosa che poi decide. Che dici di questo modello americano di violenza sociale? O di regola? Vi ricordate Gorbaciov? Sì, certo. Ho l'impressione che Obama sia come Gorbaciov, il liquidatore dell'impero, quello che chiude la porta, l'ultima ad uscire, a spegnere la luce. Vedi così addirittura? Tutto va velocemente, anche perché nello scacchiere internazionale ormai i soggetti sono altri, perché c'è per esempio la Cina. Anche altri. Prima non c'erano. Sì. Anche altri si è arricchito che prima non c'erano. Anche nel mondo, ma il mondo è plurale, diventa plurale. Il mondo diventa plurale ed è sicuramente il veleno principale per un'idea di dominio qual è quello degli Stati Uniti d'America. A proposito. Perché loro immaginavano di essere il gendarme del mondo e di uniformare tutta la terra al proprio modello. Però prima non erano non gendarmi, c'era il mondo diviso in due e adesso invece adesso stanno plurale. Arrivando plurali anche si adatteranno anche giovani ben insomma sì. Ben corazzati di idee e soprattutto con un istinto antico, verso la vita però corredato da cose forti. Farò contento Buttafuoco citando un altro impero, cioè la Cina. Hanno investito 650 milioni di sterline nel progetto per la realizzazione di un centro direzionale all'aeroporto di Manchester. Il tutto fatto dalla Industrial and Commercial Bank of China, che è controllata dallo Stato. Sono in questo momento tra i migliori capitalisti che si possano desiderare per fare investimenti in casa propria o altrui, diciamo. Sono un grande esempio. Un'altra cosa... Ecco, io vedo sì. Questa cosa, che intanto, mentre noi nella crisi ci dibattiamo e continuiamo a vedere soltanto la luce in fondo al tunnel, in Spagna le cose vanno molto meglio. È così? Oh. Olè, caro Minori. Corrida. Beh, la Spagna comincia a uscire dalla recessione. Stamattina leggevo sul Financial Times un interessante articolo sulla ripresa spagnola. Ci sono delle grandi differenze ovviamente con l'Italia. Qualcuno dice, ma perché noi no? Gli spagnoli hanno meno debito di noi, tanto per cominciare. Non si riesce mai a capire chi sta meglio e chi sta peggio, perché è una cura, cioè una corsa rispetto alla quale i parametri cambiano in continuazione. Ma dunque, però loro stanno uscendo, c'è anche, diciamo, una sorta di warning su questa loro uscita, cioè che, sai, quando gli spagnoli cominciano di nuovo a sentirsi bene e a rilassarsi, poi, diciamo, riprendono quella che è un po' la fase della siesta, per così dire. Sta di fatto che le riforme che hanno fatto in questi ultimi anni cominciano a dare i loro frutti, ecco. Ed è interessante. Ecco, volevo chiederti a proposito delle cose che hai segnalato, ma questo colloquio, anche a te Pietrangelo, questo colloquio che sembra avviato tra Washington e Teheran, è un colloquio che ha le forme e la sostanza della verità, oppure è qualcosa che maschera poi in realtà semplicemente un'intenzione di lasciare le cose come sono, cioè durissime? Ha le forme e la sostanza del realismo. Mm. Gli Stati Uniti d'America hanno capito che l'area persiana è interessante da punti di vista fondamentali per la sopravvivenza di un equilibrio, e sono quelli dettati dalle risorse energetiche, da una capacità di potenza che è quella della giovinezza e della validità di una realtà plurale, qual è quella dell'area persiana, e che non può essere riconducibile a dei pregiudizi dettati da una guerra troppo vecchia e troppo logora, che non può più impegnare gli Stati Uniti d'America, e quindi per realismo accettano di poter aprire una porta di dialogo. Già il fatto stesso di lasciarsi alle spalle il fallimento della guerra in Iraq, il fallimento della guerra in Afghanistan, non può impegnarli in Iran, dove lì sicuramente saranno un osso molto più duro degli iracheni e degli afghani. Mario, una battuta, perché abbiamo 10 secondi. Vige il principio di realtà, c'è un problema di budget. Mix 24. Siamo ancora a Mix 24 con Pietrangelo Buttafuoco, Mario Secchi. Lo ripeto, chiamateci all'800 24 00 24 o mandateci sms al 349 238 6666. Intanto abbiamo in linea un amico, un giornalista tedesco, Tobias Piller, che ha qualcosa da dirci. Tobias, buongiorno. Ieri mi sono occupato anche di questo dramma, senza sminuirlo, perché tutte queste persone sono persone con una storia personale, con una faccia, con una personalità. Dall'altro mi sembra che è la premessa che viene fatto in Italia, che così l'Italia sia il paese più esposto a questi problemi migratori, no, forse ha bisogno di essere controllato. A me risulta, dai dati che ho preso ieri, che in Germania fino a agosto sono arrivate 71.000 persone migratorie e hanno chiesto asilo politico. E in Germania lì c'è anche una macchina amministrativa che poi decide se dare asilo politico e dare anche poi un reddito di cittadinanza, un corso di tedesco, o se mandare la gente indietro. E la Grecia ha un peso molto forte. Risultano nelle statistiche europee dell'Eurostat che in Germania sono lì 95 casi ancora presenti di richiedenti asilo. E quindi, in Grecia, e quindi 50.000, in Italia 6.000, così in Italia non si chiede asilo, si cerca di andare via. E quindi forse bisogna non dire solo l'Italia ha bisogno di aiuto, ma forse bisogna veramente guardare i numeri europei. Sì, è diverso. Grazie. Mario? No, tanto saluto Tobias, solo per dire che la differenza sostanziale è vero che l'Italia è un paese di transito, il problema è che noi li soccorriamo in mare, non vengono da noi a piedi e noi dobbiamo andare con le nostre navi a soccorrerli. Questo è il punto centrale della faccenda, è a dargli il primo soccorso, cioè quando arrivano in Germania o sono già passati da noi o sono passati in un altro paese. Questo è il punto fondamentale del problema. Sbarcano nelle coste italiane proprio per andare altrove. Quando, esatto. E quando arrivano in Germania sono già nutriti e vestiti e pettinati. Scusate, beh, bella la brutalità differenza dell'immagine, però dà il senso di quello che accade veramente. In come, Italia. Come in Italia è successo l'altro ieri in Bulgaria, dove sono arrivati 10.000 profughi dalla Siria e non sono arrivati nuotando. Perché chi conosce la cartina geografica già ha capito qual è stato il percorso. Abbiamo una telefonata da Milano, Ferruccio da Milano. Pronto? Sì, pronto. Ciao Ferruccio. Ho sentito molto astio nei confronti dei buonisti e tra questi c'è stato messo anche il Papa, perché insomma... Beh, non direi proprio. Ma io così... Opinioni diverse, sì. E vorrei sapere i cattivisti cosa propongono. Perché purtroppo, oggettivamente, il problema è grosso. Finché la gente sta così male in Africa, nel Nord Africa, noi possiamo fare quello che vogliamo, ma a meno che non ci mettiamo con le navi da guerra a sparare addosso ai barconi. Possiamo decidere di fare questo, ecco, dobbiamo fare. E quando arrivano magari apriamo dei forni crematori, ce li piazziamo dentro, è finita lì. Ecco. Beh, grazie. Allora, intanto non cominciamo a dire minchiate, perché non si evocano queste immagini così crudeli e cruenti e il momento è veramente serio. Allora, la formula chiave dei cattivisti potrebbe essere questa: innanzitutto non farsi prendere in giro come è accaduto nella recente guerra in Libia, quando i francesi bellamente, per i propri sporchi interessi, hanno fatto il cosiddetto cambio di regime, scatenando un caos giusto in Libia, sapendo perfettamente quali sarebbero state le conseguenze. Se il governo italiano avesse avuto polso, fermezza e schiena, sicuramente non avrebbe permesso al signor Sarkozy di spadroneggiare nell'area del Maghreb, perché bisogna ancora una volta chiarire che l'Italia è nel Mediterraneo e ha tutto l'interesse di salvaguardare la propria sovranità e il proprio territorio. E questo è il punto. Allora, l'ascoltatore ha posto ovviamente una questione che esiste, cioè l'antinomia, no, tra il buonista e il cattivista. Beh, io dico che esiste però una via di mezzo, e cioè quella del rispetto della legge, ovviamente, della sovranità, della cooperazione internazionale, e probabilmente bisognerà comunque cominciare a ripensare alcune cose sulle quali si è fatta marcia indietro rispetto al passato. Cioè, io vi faccio un esempio: lo strumento della cooperazione italiana, che era molto forte negli anni 70 e 80, la nostra politica estera, secondo me, molto saggia nei confronti dei paesi medio orientali e del Nord Africa. Pensiamo a quello che sostenevano Craxi e Andreotti, per intenderci, cioè leali con gli americani, ma molto attenti a quello che succedeva in quelle aree. Basta ricordarsi a Sigonella come è andata esatto. No, a finire a Sigonella. La schiena dritta c'è stata. È chiaro che non si può cedere a nessun estremismo, no? Da una parte e dall'altra. Il mondo è una realtà complessa, ma io penso che l'aiuto vero alla fine lo si fa dove c'è il disordine, non qui. Questo e poi questo problema che hai posto, che avete posto dall'inizio, insomma, il discorso che il mare è una cosa, arrivare in Germania belli, preparati e disponibili a essere analizzati al microscopio è molto diverso. C'è ancora una telefonata, forse abbiamo tempo. Laura. Buongiorno a tutti, sì, parlo da Udine. Io sono una profugo istriana, ho 75 anni. Io sono qui per ricordare come si sono comportati gli italiani quando gli istriani